1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, amici debosciati d'Italia. È da un po' che non lo dicevo, eh? Cari debosciati, come state nelle vostre colazioni lungherrime e infinite? Noi siamo pronti a leggere i giornali e anche a raccontarvi più tardi dalle 8:15 quella che è la minaccia dei fondamentalismi, e oggi lo facciamo andando a raccontarvi quello che succede in un enorme continente, soprattutto in alcuni paesi di questo continente, l'Africa, spesso trascurato. Avremo ospite Gianluca Salviato, che è stato ostaggio in Libia per 8 mesi. Lei, la Libia è al di là del Mediterraneo, alle porte dell'Italia. Avremo ospite Giulio Albanese, direttore di Popolo e Missione. Giulio Albanese si muove, si destreggia con molta attenzione in Africa e con molta capacità di analisi di quello che succede. Ci racconterà, per esempio, chi sono costoro di Boko Haram, che colpiscono soprattutto in Nigeria. Insomma, racconteremo questo. Avremo ospite anche Gian Michele Sin del Giornale. Tutto questo dalle 8:15, ora però andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 20 gennaio, intanto i titoli, c'è chi apre sulla vicenda delle popolari, il Corriere della Sera, banche popolari, caso politico, e il Sole 24 Ore, quindi vedremo più tardi con Mauro Meazza, borsa, effetto popolari, la riforma lancia il rally. È una riforma molto attesa da anni, che oggi dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri. La politica, poi, e la legge elettorale. Voi non ci crederete, ma è così. Tiene banco. Renzi, ultimatum ai ribelli del PD. E vede Berlusconi. Questo è il titolo di Repubblica. Oggi alle 9 Renzi e Berlusconi si vedono. Tra poco vi spiegheremo il perché. Il Messaggero, caos PD, Renzi vede Berlusconi. Il Giornale, svolta, Berlusconi rivede Alfano. Quindi si rivedono un po' tutti. La Stampa invece, corruzione, dimensioni intollerabili. Questa è la denuncia del Ministro della Giustizia Orlando. Questi sono alcuni dei titoli, vediamo subito agli articoli perché se no non c'è tempo, e voglio partire da che cosa? Le parole del Papa, che hanno ancora una volta stupito, colpito, vengono messe in prima pagina da tutti, perché il Papa sul volo Manila-Roma che si avvicina alla Cina, in quel momento il Papa raggiunge i giornalisti e parla di paternità responsabile, parla dei cristiani, dei cattolici e di fare figli. La famiglia ideale è quella con 3 figli, questo è il titolo per esempio del Corriere della Sera. Per la verità il Papa parla di tante cose, parla anche della cultura gender, che secondo lui è un qualcosa di molto pericoloso, parla di colonizzazione ideologica nelle scuole. E paragona tutto ciò al tempo dei Balilla, alla gioventù hitleriana. Ma poi, parlando della questione dei figli, dice questa frase: non significa l'apertura alla vita condizione del sacramento del matrimonio, non significa che un cristiano debba fare i figli in serie come conigli. Ho rimproverato una donna che era all'ottava gravidanza dopo 7 parti cesarei, dicendole vuole lasciare orfani i 7 figli, questo è tentare Dio. 3 figli è il numero che gli esperti ritengono importante per mantenere la popolazione. Quando si scende succede ciò che ho sentito dire potrebbe accadere in Italia nel 2024. Non ci saranno soldi per pagare i pensionati. Insomma, la parola chiave, dice il Papa, è paternità responsabile. Pensi alla donna dei 7 cesarei, dice il Papa ai giornalisti. Questa è irresponsabilità. Alcuni credono che per essere buoni cattolici si debba essere come conigli. Paternità responsabile, invece, per questo nella Chiesa ci sono gli esperti, i pastori. Io conosco tante vie d'uscita lecite che hanno aiutato, e per la gente più povera il figlio è un tesoro, Dio sa come aiutarli. Vabbè, è tornato anche sulla vicenda del pugno, il pugno papale. dicendo: possiamo dire che una reazione violenta in teoria davanti a un'offesa non si deve avere, che dobbiamo porgere l'altra guancia, come dice il Vangelo, che abbiamo la libertà di espressione ed è importante, ma siamo umani e c'è la prudenza, che è la virtù della convivenza umana, che regola i nostri rapporti. Io non posso provocare, insultare una persona continuamente perché rischio di farla arrabbiare e ricevere una reazione ingiusta. È umano. Vabbè, il Papa che parla della famiglia e torna a parlare della famiglia e del pugno, no? Lui stesso aveva parlato del pugno, il rischio del pugno di fronte alle provocazioni. A proposito di famiglia, le polemiche non si placano. Non abbiamo avuto ospite Maria Dinolfi, il direttore della Croce Quotidiano, che oggi apre su questi discorsi del Papa, appunto sul titolo Il genere come la dittatura, che racconta di questo convegno, ecco, di questo convegno tenuto sabato in Regione Lombardia, organizzato tra gli altri dalla Regione Lombardia e da Tempi, la rivista Tempi, dalla Croce, che fa molto discutere soprattutto ora per la presenza di Don Mauro Inzoli. Don Mauro Inzoli, che è stato ritenuto colpevole dalla Chiesa e per questo ridotto a vivere una vita di penitenza, di pedofilia, abusi su minori, ma era lì. C'è anche questa foto con la stretta di mano calorosa al governatore della Lombardia Maroni. Ecco il Corriere della Sera che torna su questa vicenda, pagina 19, con Andrea Galli, il prete accusato di pedofilia, mio diritto andare al convegno, mentre Maroni dice: lo avessi saputo lo avrei allontanato. Eccolo qui, Don Mauro Inzoli passa un lunedì braccato nella casa della povera mamma. A un certo punto, scrive Andrea Galli, scende la sorella che parla coi giornalisti e dà la versione del fratello Don Mauro, che rivendica il diritto di andare dove vuole, essendo libero di farlo. Era a conoscenza da tempo del convegno, si era ripromesso di parteciparvi, affermando che non si è imbucato, ma si è registrato come chiunque altro. E fondamentalmente, racconta la sorella, non giudica questa storia una questione di vita e di morte, come invece sembra sia diventata. Si appella poi al giudizio divino. Il resto passerà. Queste le parole di Don Mauro Inzoli attraverso la portavoce e la sorella. Ovviamente adesso che succede? Nessuno lo conosceva, nessuno ne sapeva nulla. Zecchi, professor Stefano Zecchi, seduto al suo fianco: sono arrivato in anticipo, poi è arrivato lui, ha visto il posto libero, ha chiesto scusa e si è accomodato ed è stato zitto tutto il tempo. Formigoni: molte volte si è detto Don Mauro Inzoli era il confessore di Formigoni. Confessore, l'avrò visto due volte, un paio di volte e niente più. Formigoni. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, esponente di spicco di CL, Cattaneo, perché il Corriere dice: fonti del Corriere rivelano che il sacerdote non è entrato casualmente, lo ha fatto grazie a un lascia passare ottenuto dagli uffici del presidente Cattaneo. Cattaneo dice: gli accrediti li ha gestiti la giunta regionale. Maroni: il cerimoniale non mi ha informato, altrimenti sarebbe stato allontanato quel sacerdote. Insomma, non lo conosce nessuno, nessuno che lo conosce, nessuno che anche Formigoni, che era indicato questo sacerdote come suo confessore, no, l'avrò visto un paio di volte. Vabbè, comunque, sulla famiglia, a parte queste polemiche, c'è anche l'intervista su Repubblica al sindaco di Milano Pisapia, perché c'è un giallo sul fatto se sia indagato o meno. Lui ha detto: io sono indagato, la procura di Milano ha detto non è indagato per la trascrizione dei matrimoni gay nel comune di Milano, perché l'indagine è contro ignoti, ma Pisapia fa un'intervista a Repubblica e dice: eccolo qua, l'ignoto in realtà sono io. L'indagine è vero, è contro ignoti, ma siccome, per evitare problemi ai funzionari del comune, per evitare che le responsabilità ricadessero su di loro, io sono l'ignoto che ha firmato e ha registrato personalmente i matrimoni gay all'anagrafe di Milano. Quindi l'indagato e quindi l'ignoto è noto e sono io. Pisapia e le nozze gay, Renzi non può tacere, ritiri la circolare Alfano. Questo è il senso dell'intervista che trovate su Repubblica. Si torna a parlare dunque della questione dei matrimoni gay. Ma prima della pubblicità vi devo lasciare con l'articolo che ci fa tenere le mani strette sul volante, il premio mani sul volante se siete in macchina, e mi raccomando, se siete a bere il caffè appoggiate la tazzina del caffè bollente, per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata. Vince oggi Alessandro Dell'Orto, che su Libero racconta la protesta dei vongolari d'Italia che rischiano il processo se sbagliano la misura della vongola. Per un millimetro di vongola l'Europa ti porta a processo. I pescatori sono in rivolta a Venezia perché una normativa europea dice che se il mollusco raccolto è appena sotto misura, un millimetro basta, scattano reato penale e sanzioni fino a 4.000 euro. Viva l'Europa! Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, etichetta rossonera, il conduttore che crea un'atmosfera. Ma questa è nuova e straordinaria, etichetta rossonera, mamma mia. E vabbè, Tennis! Il tanque in contropiede punisce Diego Lopez. Che tre giorni, Peter Bescapè mi tormenta da tre giorni ed è un fratello rosso nero come me, cioè, quindi si vuol fare del male, che però forse conosce un po' di ragazze bergamasche alle quali deve fare qualche favore, non lo so. Comunque, viva l'Atalanta a questo punto. Allora, dobbiamo parlare di legge elettorale, dobbiamo parlare di politica, dobbiamo parlare di quello che sta succedendo, cercherò di spiegarvelo così. Intanto alle 9, tra un'ora e mezza scarsa, Renzi e Berlusconi si incontrano a Palazzo Chigi. E direte voi, e che succede? Cos'è questa urgenza? Si incontrano a Palazzo Chigi perché? Perché Renzi deve sbloccare la legge elettorale. E guardate che il problema è con la sua minoranza del partito. La linea Gotor, troverete molto sui giornali di questa linea Gotor, che non è la linea gotica, ma è la linea Gotor del deputato Gotor, onorevole Gotor, che fa parte bersaniano DOC, fa parte della minoranza del PD, che ha fatto un emendamento, non ve lo sto a spiegare dal punto di vista tecnico perché interessa solo a loro, non incide sulla vostra vita quotidiana, ma in pratica va a mettere i bastoni nelle ruote dell'approvazione della legge elettorale. E allora Renzi non ci sta più e ha dato 24 ore di tempo ai dissidenti del partito per chiarirsi le idee. Oggi vedrà appunto Berlusconi per cercare di passare un controemendamento, l'emendamento Esposito, anche qui non vi spiego nei tecnicismi come funziona, ma che serve ad approvare la legge elettorale, giura Renzi, in 48 ore. O passa questo e passa contro la linea della minoranza del PD, oppure Renzi è pronto ad andare avanti. E quando si dice avanti vuol dire, va bene, vuol dire che se non passa così non vogliono la legge elettorale, quelli della minoranza del PD, rimane il consultellum e si può andare a votare. Questa è la minaccia politica di Renzi, ecco perché insieme alla questione della votazione del Presidente della Repubblica di settimana prossima sono i giorni chiave. Non vorrei dire che sono i giorni decisivi per non cadere nel ridicolo, ma un po' è così. Pagina 2 di Repubblica, il Premier, vogliono pugnalarmi alle spalle, dice in questo retroscena di Goffredo De Marchis, Renzi, della minoranza PD, è tutto il giorno che litigo coi banchieri democristiani per il provvedimento sulle banche popolari, e quello che vedremo tra poco, figuratevi se mi spavento di Gotor, eccola qui la linea Gotor. Vogliono pugnalarmi, ma attenzione, devono prendermi, perché se mancano il bersaglio poi sono loro ad avere un problema. Questo è il clima che gira all'interno del PD. Non ho paura. Anche il Foglio, nella sua analisi del punto politico a pagina, in prima pagina, oggi l'incontro col Cavaliere, il principio è quello di un medico quello di Renzi, il principio di un medico che per sicurezza chiede al paziente di sottoporsi a un elettrocardiogramma sotto sforzo, con l'idea che così, se c'è qualcosa che non va, sarà finalmente avere il referto completo. Nel caso in questione, i battiti cardiaci coincidono con la tenuta della maggioranza. Il test sotto sforzo, a cui Renzi sceglie di sottoporre il gruppo parlamentare, riguarda la legge elettorale. Se non vogliono questa legge, il Parlamento boccerà l'Italicum, allora manterremo il consultellum e in quel caso io non mi metterò contro la volontà del Parlamento, ovvero, tradotto per il foglio, se non fate passare la legge elettorale prima del voto del Quirinale, vuol dire che non volete questa legge e che l'unica opzione possibile è votare al più presto. Eccolo qui anche il Corriere: Italicum, lite nel PD e Renzi vede il Cavaliere. Insomma, il Salvatore, il Patto del Nazareno, insieme a Verdini e a Gianni Letta. Oggi Renzi alle 9 vede Berlusconi. Il Messaggero è molto chiaro: il Premier o così o elezioni. E oggi incontra Berlusconi, pagina 3 del Messaggero. Che succederà? C'è stata anche la lettera di aiuto, di richiesta d'aiuto, di collaborazione parlamentare mandata dal PD al Movimento 5 Stelle, ma fa sapere La Stampa, pagina 9, Italicum, rilancio 5 Stelle, ma deciderà Casaleggio. Dopo la lettera della Serracchiani che chiede di votare per il premio alla lista, i grillini rispondono: la proposta è disponibile a discutere se introduciamo le preferenze. Ma oggi i capigruppo, racconta La Stampa, i capigruppo sono a Milano, incontreranno molto probabilmente Casaleggio e la linea verrà un po' dettata lì. In tutto questo si intreccia la questione del Quirinale. Berlusconi vede Alfano, dopo aver visto Renzi, oggi, dopo vedere oggi Renzi, in realtà passo indietro. Berlusconi, dopo credo un anno e mezzo, si è rivisto con Alfano. L'ipotesi è quella di rilanciare per un moderato e oggi racconta il Corriere che i nomi di Casini e di Amato sono quelli che vengono lanciati sul tavolo, ma anche Martino, un liberale, uno dei primi fondatori del partito Forza Italia. E quindi su questo ci sono movimenti, perché anche il giornale racconta come sia importante, dopo mesi di silenzio, il fatto che Berlusconi e Alfano siano tornati a parlarsi. Secondo il Fatto Quotidiano è ancora Giuliano Amato la persona che è più spinta, e il Fatto Quotidiano mette il titolo in prima pagina, individua anche le persone che vorrebbero Giuliano Amato al Quirinale. È una lettura un po' così di retroscena spinto. De Gennaro e i Carabinieri, grandi sponsor di Amato. Perché? Secondo questa ricostruzione di Marco Lillo, che trovate a pagina 3 del Fatto, l'ex capo della polizia De Gennaro, che oggi presiede Finmeccanica, e l'ex comandante dei Carabinieri Gallitelli spingono molto perché diventi Amato presidente della Repubblica, perché con questo presidente De Gennaro diventerebbe il segretario generale del Quirinale e Gallitelli invece sarebbe nominato consigliere per la sicurezza. Questo sarebbe il patto, secondo il Fatto Quotidiano, per portare Amato al Quirinale. Sta di fatto che, insomma, sono tutti retroscene interessanti. Alle 9 Renzi vede Berlusconi, Renzi minaccia la minoranza del PD: o votano questa legge elettorale prima di iniziare a votare il Presidente della Repubblica, oppure c'è il rischio, questa è la minaccia paventata, di elezioni. Staremo a vedere, chiacchiericcio della politica, ma molto sospinto. Ma oggi invece il Sole 24 Ore, e per questo vorrei subito salutare Mauro Meazza, apre sulla questione popolare, che è una questione molto complessa, una riforma che dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei Ministri. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Che succede allora ad alcune banche italiane? Succede che potrebbero diventare contendibili, come si dice, cioè cambiando i meccanismi di voto, adesso la facciamo un po' semplice, diventano interessanti per il mercato, per acquistarne quote, cambiare proprietari, eccetera. Le cose, diciamo, sono festose per quanto riguarda i mercati, le attese sono festose per quanto riguarda i mercati, un po' meno mi pare di capire per le questioni politiche che sono collegate. niente. Infatti, però vediamo, oggi è il giorno decisivo. Posso dire decisivo? Sì, puoi dirlo. Tanto. In questo paese. Avevamo detto che forse solo tu dicevi la parola decisivo. No, ma tu dillo, tu dillo. Va bene, con il tuo permesso, oggi è il giorno decisivo anche per questo, nel senso che decisione appunto attesa oggi al Consiglio dei Ministri e naturalmente lo stesso Consiglio dei Ministri in cui si parla proprio di tutto il pacchetto di Investment Compact, così come si dice, che è quello di cercare di attrarre investitori proprio in Italia. Questa è una parte delle misure per attrarre gli investitori. Ti voglio dire che nelle stesse prime pagine in cui parliamo diffusamente di questa vicenda delle popolari e anche del complessivo Investment Compact, parliamo anche del Jobs Act, non c'è più una parola italiana. No, infatti, effettivamente. No, non è colpa mia però. No, non è colpa tua, è un modo per incentivare l'utilizzo dell'inglese tra i nostri. Sì, stiamo migliorando a vista d'occhio nell'uso dell'inglese, Jobs Act perché? Perché entro febbraio attendiamo altri decreti attuativi che devono dare corpo al Jobs Act, concludere il Jobs Act. Oh, poi voglio dire che oggi parliamo anche di Alitalia, perché due esercizi in perdita e poi al terzo arrivano gli utili. Così è stato l'obiettivo, il piano che è stato deciso, discusso ieri dal CDA e ne parliamo naturalmente nelle pagine. Attento, non di norme, no, di finanza. Ah, no, appunto di finanza. Di finanza e mercati. Mentre ti inviterei a leggere con attenzione le pagine di imprese e territori, caro Alessandro. Sì. Perché c'è un problema grosso, la crisi si sta scaricando pesantemente sui prezzi agricoli che sostanzialmente sono oramai sotto il costo, non garantiscono oramai neanche il costo della materia prima, insomma della produzione, e questo non è bene, insomma è un bene per i consumatori, nel senso che abbiamo avuto tanti discount, tanti sconti molto forti, ma tutto il settore sta soffrendo. Ce lo raccontano bene Roberto Iotti e Vincenzo Chi è che oggi nelle pagine stai attento, sì, di imprese e territori, ti stavi distraendo. Invece nelle pagine di norme e tributi, non ti distrae che ti metto una nota, nelle pagine di norme e tributi trovi naturalmente martedì il condominio, parliamo di amministratore, ma anche l'IMU agricola, ancora di nuovo l'agricoltura, perché entro lunedì bisogna pagare. Oggi è un giorno, ma dillo tu, oggi decisivo, è un giorno. Esatto, decisivo per capire come si potrà pagare, atteso anche un decreto legge. E tutto ciò premesso decisivamente, caro Alessandro. Traffico! E allora, 18 e settemone, a ora Lino Milan, in legge di notizie. Eccoci qua. Allora, c'è un dibattito sulla corruzione che il ministro Orlando ha definito a livelli intollerabili. Intollerabili, corruzione a livelli intollerabili, questo è il titolo che trovate sui vari giornali. Liana Milella di Repubblica intervista anche il commissario anticorruzione Raffaele Cantone. A pagina 12 trovate l'intervista, dice Cantone: un aggettivo per definire la corruzione in Italia, stabile e duratura. E tra l'altro questa è la frase di Cantone: l'anno in cui riusciremo a sconfiggere la corruzione, mai. Non riusciremo mai a sconfiggerla del tutto, perché nessuno degli stati moderni ne è indenne. Non è una missione di sconfitta, perché l'obiettivo è ridimensionarla nei limiti fisiologici. E poi Cantone racconta quello che si è fatto di fronte alle accuse, a dire, insomma, parlare male della corruzione di questi tempi non è un modo per sgravarsi la coscienza. No, assolutamente no. Ma davvero pensa ci vogliono 10 anni per far calare gli indicatori della corruzione? Ho volutamente esagerato, dice Cantone. La prevenzione non è un processo i cui risultati si apprezzano subito. La prevenzione non è un arresto. Ci vorranno meno di 10 anni, ma la politica deve capire che non può usare la logica della trimestrale di cassa. I problemi complessi hanno bisogno di soluzioni complesse e di tempi non brevi. Così Cantone, intervistato da Repubblica sul tema della corruzione in Italia. Ma voglio saltare su Libero per parlare della questione terrorismo internazionale. Libero oggi fa un qualcosa che farà certamente discutere parecchio. Pagina 5 è un elenco di indirizzi, di nomi e indirizzi di casa. Ebbene sì, eccola qui, la lista di 60 islamici italiani finiti nell'elenco nero degli Stati Uniti. Elenco diffuso da Washington il 16 gennaio per bloccare il finanziamento agli estremisti, sono definiti islamici da attenzionare e Libero pubblica nome, cognome e indirizzo di casa. Addirittura con indirizzo di casa, eccolo qua, Mustafa Abbes, Milano, via, e non la cito io perché secondo me ci sono anche dei limiti di violazione della privacy abbastanza evidenti. Poi si continua, Youssef Abbes, Abdal Wahab, Abdal Hafiz, via Lungotevere, Roma, numero civico. Eccolo, è incredibile, cioè la lista. Il titolo è Questo è l'Islam, che è il titolo che ha fatto discutere da qualche giorno, e Libero fa questa iniziativa. A proposito però c'è ancora la polemica su Vanessa, Greta, il pagamento, il riscatto, non ce ne liberiamo più di questa polemica. Il Fatto Quotidiano però mette un'interessante notizia dicendo che tra l'altro c'è molta attenzione sul pizzaiolo Mohammed Tayeb, pizzaiolo in Italia da anni, che ha aiutato Vanessa e Greta ad andare in Siria. Ci sono contatti telefonici, lui era attenzionato, era intercettato, e quindi le telefonate di Vanessa e Greta prima di partire per la Siria sono finite nella rete delle intercettazioni. E tra queste intercettazioni ce n'è una abbastanza incredibile. I consigli di Titti a Yasser, così aggirate i controlli. In questa telefonata il pizzaiolo siriano colloquiava con una responsabile dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, UNHCR, quello di cui è stata presidente anche Laura Boldrini prima di darsi alla politica. E secondo il ROS, dunque secondo i carabinieri, questa operatrice umanitaria italiana avrebbe aiutato amici e parenti del pizzaiolo clandestini ad andare via dall'Italia. Eccolo qui. Hanno preso le loro impronte? Questa è la conversazione telefonica. No, dice Yasser. Meglio così, dice questa funzionaria dell'ONU. Di ai tuoi parenti di strappare tutto quello che riguarda l'Italia, foglietti, biglietti dell'autobus, in modo che se li fermano possono dire di essere stati fermati, che ne so, in Austria. In questo modo li rimandano in Austria e non in Italia, che sarebbe un problema. Dove dovete andare? In Svezia, dice Yasser, attualmente sono alla Fondazione Carlo Gnocchi di Milano, e così, e brigavano per farli andare in Svezia, questo secondo il ROS. Molto molto bene. Oh, c'è qualcosa ancora della pubblica amministrazione, vi devo segnalare due articoli, il primo quello dei Vigili di Roma. Noi ce ne siamo occupati, avevamo detto con un professore di esperto di diritto del lavoro, guardate che non succederà nulla ai Vigili di Roma, tutti in malattia a Capodanno, ricordate? Eccolo qui il Giornale, pagina 13, finisce in farsa la rivolta dei Vigili. Solo 30 su 767 rischiano sanzioni disciplinari dopo aver disertato a Capodanno. Si racconta in questo articolo di Patricia Tagliaferri che le norme attuali offrono ai dipendenti gli appigli utili per farla franca. Noi ve l'avevamo anticipato 3 giorni fa, in Italia non cambia mai niente. Niente, mettetevelo nella zucca, niente. Cambia forse qualcosa nella tanta agognata discussione sulle province? Ecco qui Sergio Rizzo a pagina 13, visto che mi affibbiano il titolo di volere affamare famiglie mandandole sul lastrico, vedete che invece si può. Ai tribunali 2000 esuberi delle province, scrive Sergio Rizzo, se si riusciranno a vincere le resistenze solite sindacali, scrive Sergio Rizzo, si può puntare a mettere questa idea. Prendiamo 5.000 dipendenti delle province, delle forze armate, formiamoli e risolviamo il problema di carenza di personale nei tribunali. È l'idea del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini. Eccola la ricetta. Si può fare. Formiamo le persone, cancelliamo le province davvero, e il personale non lo buttiamo per le strade, come dite che io dico dicendo una falsità. Riqualifichiamolo e facciamolo lavorare là dove serve. Si vuole fare? Fatelo. Eccoci qui. È il momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio, ricordate, oggi vince una pagina del quotidiano nazionale del giorno, Viviana Ponchia, che racconta quello che era ieri, il Blue Monday. Ieri era il giorno più triste dell'anno. Era ieri, appunto, e per fortuna è passato. Ma chi se ne frega!